Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ben Sargante e il traghettatore, ben trovati. Settimana prossima c'è una giornata particolarmente importante, è la giornata mondiale della qualità. Giovedì, organizzata da Galgano Group in Asso Lombarda, un incontro sulle quattro leve per crescere: qualità, innovazione, empowerment, leadership. La settimana che comincia da domani è anche la settimana di Florence, della Biennale dei Beni Culturali e Ambientali. Nicolò Manetti è segretario generale della Fondazione Florence. Buongiorno segretario. Buongiorno dottore. La prima domanda è: che cos'è Florence, la fondazione che organizza, e ovviamente come è strutturata la Biennale? Allora, Florence è una fondazione nata nel 2009 fra Banca Intesa, Cassa Risparmio Firenze, Confindustria Firenze, CNA e l'Associazione Partner di Palazzo Strozzi. Ha l'intento di promuovere l'economia dei beni culturali, una risposta all'ex ministro Tremonti: con la cultura si mangia, o almeno ci mangiano moltissime aziende in tutta Italia. L'economia come la decliniamo noi dei beni culturali include la cultura tutta, quindi dal paesaggio all'enogastronomia, dalle smart city alle nuove tecnologie per la valorizzazione e conservazione dei beni culturali, alla gestione anche innovativa dei beni culturali come strumento di rinforzamento e di rafforzo del brand Italia. I nostri beni culturali sono il nostro petrolio e noi con questi cerchiamo di valorizzare tutto quello che è il gusto e la cultura del Made in Italy. Ecco, a proposito di petrolio, leggo nomi tipo Paladino, Asor Rosa, ma anche Michelangelo, i concerti di Vivaldi fra gli appuntamenti che proponete. Guardi, in questo momento, mi scuso per il rumore sottofondo, sono in piazza Santa Croce a Firenze, dove per la prima volta Mimmo Paladino ha creato un'installazione contemporanea dedicata, è nata e progettata per la città di Firenze. Sono 3.600 metri quadri di installazione, una gigantesca croce fatta da megaliti di marmo bianco e colorato, e riporta un po' il concetto di arte contemporanea alla ribalta in una città anche dedicata storicamente al Rinascimento. È una sorta di rinascimento, del resto Florence ha il significato di rifioritura, di rinascita, è proprio da Firenze doveva partire questo messaggio, e con Mimmo Paladino lo facciamo contemporaneo. Ecco, da oggi domenica fino a domenica successiva, convegni, incontri, spettacoli e di tutto di più, immaginiamo. Abbiamo oltre 50 convegni, 350 relatori da tutto il mondo, ci si può iscrivere sul sito internet o anche curiosare www.fondazioneflorence.it. Abbiamo toccato tutti gli argomenti, dalla conservazione all'alta moda, dall'industria del gusto alla conservazione per esempio del patrimonio ebraico. Abbiamo veramente un ventaglio d'offerta interessante. Tutti benissimo. I convegni sono gratuiti perché la fondazione, non avendo scopo di lucro, cerca solo di portare a tutti questi concetti. Benissimo, in bocca al lupo allora per la settimana, ci vediamo a Firenze. Buona giornata, segretario. E chiudiamo con un'ultima notizia: il premio Sodalitas giornalismo per il sociale. Siamo alla 10ª edizione, hanno partecipato più di 1.500 giornalisti e in questi anni anche oltre 3.000 elaborati sono stati presentati. In occasione del premio Sodalitas propone anche l'incontro, i nuovi contenuti del giornalismo, l'informazione tra responsabilità d'impresa e non profit. Ovviamente l'appuntamento è a Milano e alla sede di Asso Lombarda. È tutto per oggi, vi ricordo di cliccare su mi piace ferribotto-radio24. Grazie in redazione ad Anita Panizza e in regia a Fabio Cantadori. Buona giornata.